60. Buonasera cari amici, la tela sonora 101.9 FM, Radio Alma. Ringraziamo Radio Alma per dare spazio alla poesia. Questa sera tantissimi ospiti al telefono, ma due in carne ed ossa. Mario. Ciao Gabri, buonasera, grazie per l'invito, con molto piacere qui in radio. Benissimo, poi c'è Alicia che è la voce mancante, ma è là, presente e segue il nostro Mario. E poi chiaramente la nostra mitica, fantastica, super G, Wonder Woman. Buonasera. Oh, la vocina dalla regia, la GGG, la quarta G. Ah, annuncio, dovete sapere che le tre G sono diventate quattro perché abbiamo la Georgia. La Georgia, che chiaramente non è il suo nome, è un nome, un codice, ma l'avete già ascoltata il venerdì scorso. E questa sera non c'è perché purtroppo è una donna molto impegnata in missione. Ma noi la salutiamo. Ciao Georgia, grazie per aver aggiunto la tua quarta G alle già tre G di Tela Sonora. Questa sera abbiamo la Caravana dei Poeti, prima puntata. Un grande grazie a Alessandro Ramberti di Fare Editore. E non ci fosse lui, la caravana non sarebbe neanche, come dire, non esistita, ma neanche stata pensata. Luca Ariano e Luca Paci sono i due protagonisti principali, perché hanno curato questa antologia, se vogliamo chiamarla, questa raccolta di poesie, che si chiama Protesto in versi. Perché protesto ormai non è più soltanto protestare con la poesia. Voi sapete che si parla tanto di desertificazione, di cambiamento climatico, ma c'è anche una desertificazione individualmente e molto spessa nella comunità italiana. Quindi la tela sonora reagisce a modo suo, quindi dando spazio alla poesia, alle parole, al suono. Voi sapete che tela sonora è anche Ikenunk, e questa sera appunto abbiamo Mario perché, oltre ai versi della carovana, abbiamo pensato di invitarlo perché oggi c'è stata una importantissima manifestazione qua a Bruxelles sulla libertà di espressione. E quindi, mentre io chiamerò i vari poeti che aprono così la prima puntata della carovana, Mario vi racconterà un pochino di questa operazione No al Bavaglio. Allora, dicevamo, li presento: Luca Ariano, Dale Zaccaria, Rossella Renzi e Tito Truglia. Un grazie in particolare a Rossella, che si è finalmente decisa a partecipare, e quindi eravamo in forse fino all'ultimo momento, la ringraziamo per la fiducia. Quindi, la poesia con la carovana esce dalla confortevole domesticità assopita, quindi le nostre tiepide casucce, i nostri studi, i nostri libri, i nostri fogli, per arrivare quindi on the air a Radio Alma. Direi che, a parte i saluti poi personali che farò più tardi, Paola, io vorrei cominciare a telefonare ai nostri poeti. Tu sei pronta? Sì, sì. Sei pronta? Allora, cosa ci fai ascoltare questa sera? Cosa volete ascoltare? Ma guarda, io direi innanzitutto Notte Volanti, perché Notte Volanti ormai è la nostra... Sì, è quello? La Braccia Arancia. Poi ci sono anche gli altri due che credo facciano parte sempre di Notte Volanti, e poi magari li guarderai tu mentre io chiamo, perché Notte Volanti accompagnerà la Carovana dei Poeti. Bene, non parlo più. Musica. Restate con noi e Luca Ariano fra due minuti. Morbida, sei la sei mia. Cari amici, di nuovo con la tela sonora, e sono felice che siate ancora qui con noi. Abbiamo finalmente il primo importante ospite di questa serata. Luca, ci sei? Ci sono. Ciao, senti, io ti ho presentato come curatore insieme a Luca Paci di questa antologia, di questa raccolta. Se vuoi parlarci un attimino di questo... di questo progetto, perché insomma protestare con la poesia non è da tutti i giorni, e così poi magari diamo inizio alle domandine. Va bene. Beh, devo dire insomma, per onestà, che l'idea è stata di Luca Paci, che è l'ideatore di questo progetto, come anche il nome Pro Testo, scritto Pro trattino Testo, ecco, con doppio e triplo senso. Sì. E niente, Luca mi aveva proposto in autunno scorso di dargli una mano a realizzare questa antologia, e assieme abbiamo deciso di selezionare alcuni poeti, di mettere anche le nostre poesie, e l'idea era appunto, poi leggerò magari qualche pezzettino dell'introduzione, l'idea era di, con la poesia, di protestare, nel senso di dare un segnale forte in questi anni in cui sembra che tutto scivoli velocemente via, che non interessi più nulla. L'idea era che i poeti, pur con stili diversi, come poi potranno sentire gli ascoltatori nelle varie puntate, i poeti possono dimostrare di avere qualcosa da dire, non solo di personale ma anche di più universale, di poter dare il loro contributo per migliorare le cose. Senti, io parto subito con la prima domanda. Io sono a pagina 19 di Protesto e tu dedichi la prima poesia ai tuoi genitori, e soprattutto vorrei leggere le quattro righe di Joyce Lussu, perché poi ti spiegherò chi è per me Joyce Lussu. Sì. Compagni, camminiamo tenendoci per mano ancora, affinché questo crepuscolo non precipiti nella notte, ma sia il grigiore opaco che precede l'aurora. Devi sapere, carissimo, che Joyce Lussu è stata presentata alla tela sonora grazie a un lavoro, non so se tu conosci e sei un appassionato, come mai queste righe siano proprio così, suggellino l'inizio del tuo libro, ma Federica Trenti ha preparato ha lavorato tantissimo su questa poetessa e ha già presentato un primo libro. Ne abbiamo in aspettativa, ce n'è un secondo che presto verrà presentato, quindi niente, nulla è per caso, non è un caso che la carovana dei poeti sia alla tela sonora, e ti volevo ringraziare. E quindi la prima domanda era se hai voglia, proprio perché questo è un calendario oltre il tempo, come tu hai scritto, se hai voglia di leggerci una tua poesia e poi magari dare come dicevi tu, fare un commento o leggere in parte l'introduzione di Protesto. Sì, molto volentieri. Dai. Leggo in questa calendario oltre il tempo, c'è una poesia anche della raccolta precedente che sono già letto in giro, quindi preferisco leggere qualcosa di nuovo, e leggo da contratto, da questa sempre sezione che farà parte della prossima raccolta, che si chiama Contratto a termine, che esce a breve, tra qualche settimana. Ok. In uno zapping selvaggio, insonne, un film erotico anni 70, scontato e ridicolo, e poi un cartone di robot anni 80, i tuoi piccoli eroi nelle mattine prescuola, o tuo padre in divisa, con le mostrine lucenti e la grande pistola nera scintillante. L'estate della metropoli, all'alba, sono larghe di gente che rincasa, in quella casba di mura scrostate e rifiuti all'angolo delle porte. Il suo tipamento è imbarazzante. I tuoi scrupoli, quando il ghiaccio s'arriccia sul tetto e la brina della tua via, dura fino a giorno inoltrato. C'era un bosco tra Lodica e dal Pusterlengo di pioppi che chissà da quante stagioni accarezzano quel soffio di partenze improvvise. Eccomi. Bene, senti, diciamo che la tua partecipazione a Protesto ha dato importanza a questo libro, a questa antologia. Noi ti conosciamo già perché hai partecipato alla puntata Radio Alma. Oltre a leggere l'introduzione, che poi noi potremo anche nelle prossime puntate di tutto il mese di ottobre ricordare ai nostri amici che ascoltano, che cosa vuoi dare come messaggio tuo particolare? Perché hai accettato di così insieme a Luca Paci di eseguire questo enorme lavoro, che questa così questa scelta di versi di poeti, perché non è facile scegliere quando insomma magari certe persone si conoscono anche, sono amici e sono compagni di viaggio. Perché hai deciso quindi di lanciarti in questa avventura? E chiaramente Alessandro è stato in questo eroico ma anche un grande saggio, perché sa cogliere al volo le buone occasioni. Dimmi un pochino, raccontaci. Sì, Alessandro l'ho già ringraziato tantissime altre volte in pubblico per molti lavori, lo ringrazio ancora perché ancora una volta ha creduto in questo progetto, non dico scatola chiusa, ma gli abbiamo parlato del progetto e fateci un po' vedere che poi ti avete scelto e poi dopo riuscite a pubblicarlo, comunque con grande fiducia e con molta stima nei nostri confronti e con molta disponibilità. Ma io mi sono lanciato in questo progetto con Luca perché insomma chi mi conosce un pochino, le cose che faccio, ho sempre avuto la passione, la fissa tra virgolette della poesia civile, da sempre, insomma, anche le cose che faccio di critica sono inerenti a certi poeti, e mi piaceva l'idea di poter dire che ancora oggi nel 2009 ci sono dei poeti civili di tutto rispetto che magari non sono conosciutissimi, magari non saranno mai letti in antologie scolastiche, ma che possono dirla loro, che hanno uno sguardo sulla realtà. E la cosa che ci piace molto di questo protesto, che la stiamo portando in giro in varie parti d'Italia, ed è, a me diverte molto andare in giro. Recentemente siamo state a Vignola, c'era una libreria piena di gente, persone partecipi, ascoltandoci anche così, sentendo molto le problematiche che mettiamo in evidenza in certe poesie. Questo mi emoziona molto e mi fa sperare ancora che la poesia può servire ancora qualcosa anche in Italia. Noi ne siamo sicuri, tant'è vero che il programma di Arte la Sonora è dedicato alla poesia. Leggici ancora una tua poesia e poi brevemente due parole sull'introduzione. Magari ti chiameremo poi ancora una volta nel corso di questo mese insieme a Luca Paci, perché così possiamo continuare a chiamare gli altri poeti, perché certo, sennò, certo. D'accordo. Dio, questa poesia dedicata a un partigiano. Vito, ex partigiano, già allora lo chiamavano il Terun, ha combattuto nei GAP, ma ora vive col respiratore 10 ore al giorno, non ci sta più con la testa, e ti racconta che lui lì era di casa. Quelli sì sono bravi ragazzi, non sa di baci e strette di mano, cose loro. Suo figlio si è bruciato i polmoni d'Eternit in 30 anni di cantiere, e suo nipote Nino ti porta in qualche bettola a cenare, cibi di scout, studente fuori sede, ma poi dal bancomat preleva un'altra serata etilica. Teresa e Fiulin, in un caffè un po' chic, paiono usciti da un romanzo francese. Tra le pareti si respira sapore di moca e fumo di castagne cotte in padella, quella coi buchi che ti ricorda focolari, e il tramonto tangenziale tra pali e fili brilla anche su cupole campanili. Arriva il freddo porco a soffiarti la bocca di tosse e starnuti, e il volo d'uccello è solo a rivederci d'un abbraccio. Grazie, allora due parole come introduzione per così dare un tappeto rosso a Dale Zaccaria, a Rossella Renzi e a Tito Truglia per questa prima puntata. Sì, leggo due righe velocissime dall'introduzione. D'accordo. Si chiama Mina e Femmina, scritto da Luca Paci, proprio poche righe. Gli ultimi anni hanno visto e lasciato in campo di poesia il deserto, intimismo solipsistico, lagne egocentriche, con atti di misticismo, vomitato e urlato, lirismo sguaiato e latrato. A mancare soprattutto era la consapevolezza di vivere una comunità, la crassa materialità denunciata dal martire della spiaggia ostiense, assisa come un cancro nelle nostre viscere. La politica e la cronaca, ignorate perché reputate impoetiche, l'intolleranza mascherata dalla tolleranza del pensiero unico. E tuttavia, dalle retrovie, si organizzava la resistenza, prima discreta e poi massiccia, come l'onda che spazza la precedente spazzatura. E poi via via Luca spiega un po' tutta la sua idea di poesia civile. Ok, benissimo, ti ringraziamo, ti salutiamo. Grazie a voi. È stato un piacere, come al solito non è per caso che Luca Ariano sia così capitato nella tela sonora, nella tela del ragno, che anche Alessandro Lamberti ne faccia parte, e quest'idea di Anna Maria Farabi. Ti ringraziamo Luca, grazie di aver portato così questa speranza e questa gioia anche di scrivere poesia. A presto. Un saluto a tutti, anche ai protestini, come li chiamiamo io e Luca, che verranno. Benissimo, grazie, un augurio anche che per loro sia una bella serata. Ciao. Grazie mille, buonasera a tutti. Ciao. Allora, cari amici, adesso vi lascio Mario, che vi spiegherà che cosa è successo oggi a Schuma, mentre io chiamo Dale Zaccaria. Ci stai, Mario? Eccoci qua, ciao Gabri di nuovo. E niente, volevo un po' raccontare qualcosa riguardo oggi a Bruxelles. Sicuramente gli ascoltatori sanno che domani a Roma ci sarà una grande manifestazione nazionale in difesa della libertà di stampa e di informazione. E sicuramente sappiamo tutti perché è stata convocata questa manifestazione nazionale, perché nel nostro paese, là in Italia, ci sono dei gravi problemi in molti sensi, ma anche riguardo alla stampa e alla libertà di informazione. Ci sono stati dei casi in cui alcuni giornali hanno fatto delle inchieste specificamente su personaggi politici importanti, sul Presidente del Consiglio, su certe sue frequentazioni, eccetera. E niente, la reazione del potere, del Presidente del Consiglio e del suo entourage è stata quella delle minacce o delle pressioni o di tutta una serie di cose che hanno portato giustamente molti a pensare che la libertà di stampa in Italia sia in pericolo. Attraverso pressioni, censure, autocensure, che forse sono ancora peggiori delle censure, ma facendo sì che praticamente l'esercizio della professione di giornalista, di informatore, sia sempre più difficile e si tenda a far conformare la gente a magari a chiacchierare del nulla, no? A parlare, non so, di sport o del gossip o di storie che non interessano in realtà la sostanza delle cose, ma che possono intrattenere la gente. Dentro di tutto quel quadro che c'è in Italia da molti anni ormai, dell'intrattenimento continuo attraverso la televisione, le riviste, il chiacchiericcio. Quindi questa manifestazione è stata indetta dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, da tutta una serie di altre associazioni, organizzazioni, sindacati, partiti, eccetera, eccetera, proprio per cercare anche di smuovere un po' le coscienze, non tanto e non solo per fare una manifestazione magari contro il governo, l'ennesima se vogliamo, no? Ma proprio per mettere l'attenzione, per richiamare l'attenzione su questo problema, perché le libertà, come sappiamo, come dovremmo sapere tutti, non dimenticare mai, non è un qualcosa che si conquista una volta per tutte, ma va difesa. E allora, ecco, qui a Bruxelles ci sono molti italiani dell'emigrazione tradizionale di molti anni fa, ma anche molti italiani più giovani, più di arrivo più recente, che anche se vivono, sono integrati qui in Belgio, in differenti posti, comunque continuano a seguire le cose in Italia e si interessano, e vorrei dire anche che soffrono, che soffriamo anche quello che sentiamo dall'Italia. Anche perché qui ci entriamo in relazione con tutta una serie di persone, quindi ci chiedono, no? E quello che c'è stato oggi è che è stato partecipare anche noi a queste mobilitazioni nazionali con una manifestazione degli italiani a Bruxelles con la libertà di stampa, con l'adesione di tutta una serie di organizzazioni politiche, sociali e culturali. Ci siamo riuniti al Rompo in Schuman questa mattina, cioè questa mezzogiorno circa, più di 100 persone siamo stati presenti, con delle bandiere, con degli striscioni, con dei cartelli, proprio per due cose innanzitutto. Per rimarcare la nostra adesione alle manifestazioni in Italia e per farci sentire, farci qui presenti, non solo spettatori. Bene, grazie Mario, poi avrei ancora spazio per raccontare magari gli avvenimenti di oggi. Abbiamo la prima poetessa, Dale Zaccaria. Ciao Dale. Ciao Daniela. Oh, benissimo, come stai? Benino, bene. Ok, senti, allora, abbiamo iniziato con Luca, c'è stata lettura di testi, presentazione, introduzione di protesta, adesso tocca a te, ti lascio la parola, partecipa come vuoi, una carovana, sentiti libera di esprimerti, di dire quello che pensi e vogliamo che tu legga chiaramente un tuo pezzo. Sì, non so da dove iniziare. Dove vuoi? Vuoi leggere? Vuoi che ti faccia la domandina classica? Come? Vuoi che ti faccia una bella domanda di quelle difficili, difficili? Sì, ecco, fammi una domanda difficile. Che tempo fa da te? Dunque. Piove, nevica, cosa c'è? No, qui piove. No, no, vabbè, diciamo che ascoltavo anche prima Mario, mi sembra. Sì, giusto. Beh, Protesso sicuramente si inserisce in questo momento storico, questa antologia di vari autori dove ci sono anch'io, in un momento secondo me dove veramente c'è proprio bisogno di protestare nel senso più grande, almeno per quanto riguarda comunque la situazione qui in Italia, ma anche in altre parti d'Europa, anche da un punto di vista sicuramente artistico, culturale. Quindi sono sempre più convinta che comunque la poesia, l'arte in genere, sia una forma molto forte, molto immediata per combattere tante forme che comunque non vanno verso sicuramente valori diciamo che sono appunto il bene comunque della comunità, anche valori morali. In questo caso io ho letto anche la poesia di Pierpaolo Pasolini proprio perché penso che Pasolini sia uno scrittore, nonché tra parentesi uno degli ultimi maestri, ma un punto di riferimento fondamentale da cui partire e ripartire per riconsiderare tanti aspetti culturali, poetici, politici, d'attualità. La poesia, diceva Hikmet, può essere utile a una sola persona, ma può essere utile anche a un popolo. Quindi i versi, secondo me, sono una forma proprio, in questo caso penso anche a una lettera che mi scrisse Giorgio Barberi Squarotti, dove diceva che possiamo con la gratuità del messaggio poetico sconfiggere comunque gli orrori delle guerre e la vanità della moda. Questo è un momento, secondo me, dove comunque chi scrive, chi può dire, insomma, attraverso questa forma così, così importante che appunto è la scrittura. Poi insomma i poeti nella storia ci insegnano quanto sono stati fondamentali. Penso allo stesso anche Pablo Neruda, per quanto fosse un poeta d'amore, comunque era legato a tutta una lotta comunque civile cilena. E io da Protesto posso leggere una poesia che scrissi durante la guerra nei Balcani nel 99, per questa ferita profonda di questa terra, no? Ex Jugoslavia, credo che sia una terra appunto che porti in seco questa ferita. Leggo questa poesia e nulla. Bene, aspettiamo. Sì. Lei camminerà di nuovo con orgoglio su cieli di tenero sangue, portando sulle spalle l'azzurro silenzio dei figli. Lei avrà nelle mani le linee di un tempo morale, i capelli raccolti come pensieri spinati in un foral di seta. La terra, ora bruciata di grano, piegata sui seni, gonfi ricordi di strade che non più si troveranno. Le case, come tanti buchi di certezze, le rallenteranno il passo. Mi ricordo che nel 99, insomma, ero abbastanza piccolina e però fui colpita dalla forte violenza che ci fu soprattutto sul corpo delle donne. Io sono una poetessa comunque molto vicina al mondo femminile e in questo momento si parla molto e tanto del corpo delle donne e mi ricordo, insomma, la guerra anche in Jugoslavia per gli stupri etnici, per tutta una serie di situazioni, insomma, mi ferì molto anche all'epoca, insomma, il discorso anche della donna. E, ecco, questa è un'altra tematica, secondo me, che sento che qualcosa sta cambiando anche qui, no? Da un punto di vista appunto delle donne, del corpo delle donne, dell'uso e dell'abuso sul corpo delle donne. Ecco, questo un altro, non so, sento che ci sono tante tanti umori che si stanno comunque muovendo, rinascendo, non so, e credo che questo sia comunque un segnale positivo, e io lo faccio attraverso la poesia, quindi stando anche molto vicino alle tematiche delle donne, non a caso anche grazie a te, insomma, la, la, la poesia dedicata a Malalai Gioia, che ho avuto l'onore e la fortuna di conoscere personalmente, la, la, la, la situazione delle donne, delle madri, delle bambine in Afghanistan, quindi ecco tutta una serie di situazioni che io sento anche molto, molto, molto vicine. Bene, senti, quindi possiamo anche dire che ti avevo invitato a Bruxelles proprio per parlare di queste tematiche, quindi chissà che magari non si riesca a organizzare qualcosa insieme anche a quella tua amica di cui mi hai parlato. Sì, sì. No, eh? Magari sì. Non si sa mai nella vita, bisogna pensare in grande, bisogna pensare a, al massimo, al top, per poi arrivare a raggiungere anche magari. È una donna estremamente coraggiosa, anche perché ha solo 25 anni, ecco, deputata afghana, poi cacciata dal Parlamento afghano, quindi è una donna. Non ti preoccupare, scusa se ti interrompo, se sentirai la vocina, perché noi abbiamo anche problemi di pubblicità, di pubblicità, quindi niente, se, se succedesse che subentra non ti stare a preoccupare. Quindi senti, questo quindi è un invito ormai formale, ufficiale, vedremo come attuarlo, anche perché Mario qui sta dando, a Mario e Alice stanno dando pubblicità, allora mi dicono un attimo, ascolta. Sì, sì. Espace DI. Radio Alma présente les concerts de l'espace DI. Émission publique, Maison des Cultures de Saint-Gilles. Samedi 10 octobre à 22h. Avec The Whale. Et Monsieur Smith. Entrée gratuite. Réservation souhaitée. 0487 29 17 43. 0487 29 17 43 ou www.radioalma.be. Samedi 10 octobre à 22h. Espace DI. Samedi 10 octobre à 22h. Bene, grazie. Riprendiamo Dale, quindi dicevo un invito ufficiale a, ad averti qua a Bruxelles col Club del Libro, la tela sonora, pensiamo in grande, sarà possibile. Adesso purtroppo ti lascio ancora 2 minuti di tempo, decidi tu come sfruttare, se vuoi leggere ancora una poesia o lasciare un messaggio, visto che hai questa predilezione per le donne, e ti ringrazio per le parole che hai detto, per il coraggio, per questa bellissima poesia che ci hai letto, e sono con te anch'io. Mi sento di insomma di esserti vicina in questa tua così lotta per tenere alto l'onore e il valore delle donne. Ecco, sì, ne parlavamo anche con Chiara Cretella, che lei fa parte appunto delle Voci della Luna, e, insomma, momenti in cui le donne possano comunque recuperare il bellissimo mondo che ne siamo, no? Quindi madri, creatrici, artiste, nel senso più ampio, quindi anche con lo stesso Luca, Luca Paci, che è uno dei curatori della, dell'antologia Protesto, che proprio mi, mi invitò a partecipare all'antologia, proprio voleva, voleva comunque la presenza di donne e per e di questo comunque lo ringrazio, e anche diciamo ritrovare anche questo dialogo con il mondo comunque maschile, che secondo me si è andato un pochino perdendo, no? Quindi questa forma, diciamo che queste forme di potere, anche di mercificazione poi del corpo e anche della figura, hanno portato anche a una rottura di dialogo tra il maschile e il femminile. Una cosa che io comunque recupero anche attraverso le collaborazioni che faccio da anni anche con tanti uomini, tanti bellissimi uomini, non da ultimo comunque un uomo che amo molto, che è Fabrizio Rufo, che mi ha accompagnato tantissime volte in mie serate, quindi secondo me si può riacquistare anche un dialogo tra il mondo maschile e femminile, certo, un dialogo anche poetico, intimo, e quindi anche l'invito alle donne a riappropriarsi di un nostro mondo che è molto molto bello. Mm-hmm. Il mio messaggio ultimo, diciamo che è un po' la mia sfida, un po' utopica, però io sono una donna che crede molto nei sogni e dico sempre che con la mia poesia comunque voglio, tento comunque di creare dei sogni, no? E non smetterò mai di andare avanti in questo percorso con tutte le difficoltà, quindi il mio invito comunque è quello di non smettere di sognare, di non smettere di darsi comunque delle possibilità, perché sarà forse una frase comunque scontata, abusata, però secondo me un mondo sicuramente migliore è possibile per tutti. E questo credo sia anche una anche la poesia abbia il compito anche di fare questo, di anche di farci sognare, di farci innamorare, di farci sperare, credo che siano poi sentimenti universali, no? Mm-hmm. L'amore, appunto, un sentimento universale che prima o poi tutti, insomma, andiamo a cercare, quindi importante per continuare a vivere. Spero di lasciare fiori e visioni, insomma, in questo mio passaggio, appunto, da passante in nella tela. Senti, sicuramente ti ringraziamo per aver anche ricordato l'importanza del sogno come terapia e sì, come sì, da vivere fino in fondo. D'accordo. Senti, grazie Dale, ci sentiremo poi per prendere accordi. Grazie, grazie per aver partecipato alla Carovana dei Poeti, ti salutiamo, un grande abbraccio. A presto, a buon viaggio anche a te. Un bacio, ciao. Ciao. Bene ragazzi, allora siamo di nuovo qui. Mario, ti davo ancora 2 minuti di tempo se vuoi continuare a spiegare un attimino come siamo organizzati, anche se vuoi parlare di Stissu Sangu, perché credo che sia importante nei confronti di Sebastiano. Io vado a chiamare il prossimo ospite, che è Tito Truglia. Ti lascio, ti cedo il microfono. Va bene, grazie. Ecco, vorrei ringraziare anch'io i contributi, quello che hanno detto i poeti prima, no? E mi ricollego a qualcuna delle loro parole chiave, la protesta, il movimento. Ecco, io ho parlato prima appunto di quello che è stato un atto di protesta, no? Questa riunione di un gruppo importante di italiani, abbiamo detto oltre un centinaio di italiani, sia affiliati o partecipanti a organizzazioni politiche, sociali e culturali a Bruxelles, ma anche tanta gente non affiliata ma che ha sentito questo bisogno di esserci, di protestare, di manifestarsi per la libertà di informazione e di stampa, ma soprattutto anche pensando ad un'Italia migliore. Il messaggio di Dale prima è stato molto bello, no? Vedere appunto di far nascere dalla protesta, dal movimento, un qualcosa di meglio, no? Un qualcosa di migliore. Per il nostro contributo che possiamo dare all'Italia, senz'altro. Ecco, qui a Bruxelles abbiamo detto che ci sono diverse organizzazioni, chiaramente sono molto trasversali, entrano sia italiani dell'emigrazione che italiani nuovi, però ci si cerca di darsi da fare, no? Come per esempio la stessa Gabri, la Radio, ma anche noi stessi. E, per esempio, un'associazione culturale che c'è qui a Bruxelles, l'associazione culturale Antonio Gramsci, ha organizzato per il 17 ottobre la proiezione di un film, come diceva Gabri, Ustissu Sangu, in siciliano lo stesso sangue, parla di migranti, è un film documentario che racconta un po' tutta una serie di storie di migranti che vengono dall'Africa, arrivano in Sicilia e cominciano un percorso vitale, spesso molto duro, anzi sicuramente molto duro, pieno di sacrifici, anche di incomprensioni. E vorremmo appunto, abbiamo organizzato questa proiezione nello stesso giorno in cui in Italia c'è un'altra manifestazione importante, quella antirazzista, 17 ottobre a Roma. Vogliamo così a distanza anche noi partecipare e dare degli spunti di riflessione, appunto, far diventare la protesta un movimento che possa creare qualcosa di meglio. Bene, cari, siamo di nuovo qua, cari amici, abbiamo Tito Truglia in collegamento con noi, un secondo, mi fanno cenno, non c'è più? Tito Truglia. Vai, pronto Tito? Sì, pronto? Ciao, allora, sei il terzo ospite di questa carovana, abbiamo iniziato con Luca, poi abbiamo continuato con Dale, adesso con te. Come ho fatto con loro, se tu sei d'accordo, abbiamo già parlato di un'introduzione, diciamo così, con Luca, dell'obiettivo del progetto di protesto, quindi ti lasciamo il microfono, se hai voglia di leggerci qualcosa e magari di raccontarci la tua esperienza partecipando a questa antologia. Sì, allora Beh, prima di leggere qualche testo, sì, dico la mia su questo progetto. Per me appunto è rappresentato una, diciamo così, un'apertura, perché, come dire, singolarmente ci sono tanti poeti, no, che, diciamo così, nel loro chiuso frequentano la poesia civile, poesia civile sta sicuramente per diciamo così, per indignazione, no, sui molti problemi che percorrono la nostra società. E il progetto ha, diciamo così, ha aperto una finestra, perché appunto ha messo in contatto tantissimi poeti, più o meno giovani, che appunto finora hanno coltivato questo tipo di approccio poetico singolarmente, ma adesso hanno la possibilità in qualche modo di farlo collettivamente. Per cui appunto si apre una strada. Certo. Per cui il progetto è stato sicuramente lodevole, però appunto va comunque coltivato nel migliore dei modi. Perché chiaramente queste esigenze che tutti sentiamo, no, di diciamo così, di attestare pubblicamente la nostra indignazione, dico attestare pubblicamente perché appunto l'etimologia latina di protestare, di protesto, è appunto sostanzialmente attestazione pubblica, no, dei propri pensieri, delle proprie idee, della propria arte, della propria espressione. Da dove ci chiami tu? Allora, io vi chiamo da Pavia. Ah, però io ho letto una tua bellissima poesia, Calabria Supermarket. Infatti io... Ce la vuoi leggere? Sono uno dei tanti, non esuli, ma comunque dei tanti che si sono dovuti spostare inizialmente per motivi di studio, no? Certo. Perché ho studiato qui a Pavia, mi sono laureato in filosofia e appunto mi sono spostato da giù, dalla Calabria, per i soliti motivi di studio, insomma. Ok, quindi la Calabria tra l'altro mi piace da morire, l'adoro. Poi c'è un progetto qua alla Tela Sonora di parlare di poesia calabria e 'ndrangheta insieme a Gianmario Lucini, Mario Gabrielli e la Giorgia, che è la nostra quarta G in radio. Ci vuoi leggere quindi magari questa poesia o un'altra da te? Non... In questi giorni, no, sta tornando insomma d'attualità non soltanto la questione della mafia, dell'andrangheta appunto, ma ormai c'è questo problema dell'inquinamento, no, della radioattività. Ormai insomma il territorio calabrese è fatto un colabrodo, sì, il territorio, ma ormai anche le coste e a quanto pare anche il mare insomma se la passa male. Per cui appunto la Calabria è un po' d'attualità, insomma, come tutto il territorio italiano, insomma. Adesso proprio di oggi, poco fa, si scorrevano le immagini del telegiornale di questo alluvione pazzesco a Messina con decine di morti, insomma, cose incredibili che succedono in tutta Italia, ma ancora peggio appunto nel meridione, insomma. Okay. Per cui appunto, visto che l'hai citata, posso leggere, se sei d'accordo, posso leggere la poesia Calabria, sì. Supermarket. Certo, sì, grazie, che è molto bello. In realtà dico anche appunto che di tanto in tanto io frequento, diciamo così, anche il dialetto calabrese, poi magari se nel finale c'è l'opportunità anche di leggere qualche verso in calabrese. Sì, hai ancora 7 minuti, quindi come okay, preferisci te, non ci sono problemi. Questa poesia, inizialmente c'è una citazione. Dilla. Di García Lorca. Dilla, che è molto bella. Non c'è che un milione di fabbri che fabbricano catene per i bambini del futuro. Invece i versi fanno così. Stormi di agnelli affamati marciano verso il mare d'Occidente. E verdi sentieri tra le colline scoprono l'angoscia dell'assenza. L'antico gioco feroce ha costretto gli orsi del sud a piegarsi alla vita. Ecco fiori e migliaia coltivati per i figli dei figli. Ecco frutti maturi per i figli dei figli. Bocche sazie e disperate sulla via dell'abitudine. Che atroce destino per gli eroi della terra e del fuoco. Che atroce destino per gli eroi schiavi del ferro e del vuoto. I signori clienti sono pregati di mettersi in fila davanti alle casse. Il nostro supermercato chiude alle 20:50 e finisce così. E adesso dai, in dialetto, così concludiamo. Beh, sul dialetto, allora, ti propongo e propongo agli ascoltatori questo piccolo testo che è un po' una commistione di filosofia zen e di saggezza calabrese. D'accordo. Il titolo è Caminando, ed è facile, comprensibile. Sì, ermicoli, ti camminano su po' peda, assa li stara. Si ermicoli ti camminano su pa' gamba, assa li stara. Si ermicoli ti camminano su pe' mani, assa li stara. Si ermicoli ti cammino su paloggi, assa di stara. Si ermicoli ti cammino su pa capo, assa di stara. È abbastanza comprensibile, ci sono queste formiche che appunto sì. prima camminano sul piede, eccetera, eccetera, poi su tutto il corpo e così via, insomma. Cosa possono rappresentare queste formiche? Ecco, era la mia domanda, ma te la sei fatta da solo. Chiaramente rappresentano moltissime cose. Certo, certo. Allora, noi li lasciamo stare. Dimmi. Li lasciamo stare, dico, le formiche. Lasciala stare. Lasciamo stare, però, nello stesso tempo partecipiamo all'antologia di protesto. Quindi, infatti, sì, beh, ecco, sì, il tono di questo testo appunto era, diciamo così, di una certa rassegnerazione, però appunto, come dire, si può benissimo tornare, come dire, alla qualità della vita, alla gioia della vita. Stare sereni non significa non indignarsi, insomma, non sentire i problemi che ci sono e che ci percorrono quotidianamente, insomma. Benissimo, senti, quindi ti richiameremo per Al di fuori della carovana per partecipare a questo progetto insieme a Gianmario Lucini, la 'Ndrangheta in Calabria, quindi sarai un valido, come dire, testimone, anche perché insomma più calabro di te non c'è nessuno. Benissimo, ti ringrazio. Grazie Tito, grazie per aver partecipato alla carovana, ti lasciamo andare e niente, riprendiamo la nostra trasmissione, metteremo credo un po' di musica perché ormai la nostra Paola è lì che sta armeggiando, preparandoci una sorpresa, e mentre ascoltiamo un brano, così anche Mario si riposa per la, diciamo, l'attacco finale, io vado a contattare la quarta e ultima partecipante, Rossella Renzi. State con noi. Cari amici della Tela Sonora, mi dispiaceva interrompere questo bellissimo brano. Paola, di chi erano? Sono sempre note volanti, ma un bellissimo brano. Allora, era Davide Mocini. Un pochino più forte, così ti sentiamo? Mi sentite? Poco, ma non importa, va bene. Mi sentite? Sì, più o meno. Ok, il brano era? Era Davide Mocini. Davide Mocini? Con Ghiacciassero i pensieri. Ghiacciassero i pensieri, ringraziamo quindi per questo brano, e abbiamo in linea la quarta poetessa. Ciao Rossella. Buonasera. Buonasera. Dunque, hai qualche minuto, perché siamo in mega ritardo, però come ho detto all'inizio della puntata, siamo molto felici che tu abbia accettato finalmente di partecipare alla diretta. Grazie per questa fiducia. Quindi sei la quarta ospite questa sera. Abbiamo iniziato con Luca, siamo andati avanti con Dale e Tito. Che cosa ci vuoi leggere tratto da Protesto e qual è la tua esperienza dopo aver partecipato a questa antologia? Sì, allora leggerò alcuni testi tratti dalla sillage che ho pubblicato in Protesto, che si intitola Sull'orlo del mondo. Uh-huh. E niente, la mia esperienza mi sembra si stia svolgendo in maniera molto positiva, perché proprio tra l'altro domenica, il 4 ottobre, si svolgerà una presentazione dell'antologia qui nella mia città. E ci sarà. Dove? Dove? Devi dirlo dove? Sì, a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna. Benissimo. E quindi sì, siamo in piena fase organizzativa per questa presentazione. Inoltre ho visto che anche le altre presentazioni che sono ci sono state in questi giorni e nelle settimane passate sono andate molto bene, per sì. Cui questo mi fa molto piacere. Ti solleva il morale, quindi ti dà forza e speranza per andare avanti. Esatto. Andrà bene anche per te sicuramente. Dai, vuoi leggerci quindi un brano, così approfittiamo perché mancano pochi minuti al termine della puntata e poi magari vediamo se riusciamo a leggerne un secondo. Va bene, grazie. Intero, devo contenere il silenzio. Nelle mani, il verso dei rapaci che si voltano con teste da uomo. Il lamento del mendicante implora di partire, mio piccolo animale, sei il merlo nero che mi fissa nell'ora muta della sete. Leggine ancora una. Sì. Mi piace molto il tuo modo di leggere. Come direbbe Anna Maria Farabi, le poesie non vanno mai declamate, ma vanno dette. E tu l'hai fatto molto bene. Grazie. L'ora del cielo è di sale e memoria. La strada riceve le braccia ad ogni metro. Fissiamo il tramonto, le stelle tiepide del pianto. La polizia verrà stanotte, ci porterà alle sbarre, ci farà vomitare la nostra calda disperazione. Senti, cosa significa per te protestare? Dunque, protestare significa tantissime cose, però secondo me una cosa molto importante per poter protestare è quella, prima di tutto, di ascoltare, quindi di mettersi in un attimo in una posizione di margine e poter ascoltare la voce dell'altro, quello che accade intorno. Solo dopo questo, diciamo, questo momento, e allora è giusto anche intervenire, ecco, e poi mettere su carta l'urgenza che sentiamo, che appunto che l'atto l'urgenza che c'è nell'atto dello scrivere, che secondo me è questo tormento che un po' affligge il poeta. Mm-hmm. E poi che cos'altro? Perché hai detto che ci sono tante cose. Sì, ci sono tante cose. Io protestare, quindi per un testo potrebbe essere, ma anche la protesta, quindi andare contro, ma ci vuole intelligenza anche andare contro le cose, perché passiamo troppo tempo a lamentarci e andare contro le cose, quando invece bisognerebbe pensare di più a organizzare, creare eventi, sì, forse, appunto, più in una posizione di costruzione. Benissimo, quindi di pro nel senso di per, a favore. Testo potrebbe essere anche la testa, quindi la testata o l'edificare, quindi verso una creazione. Protesto potrebbe essere anche, in questo senso io l'ho letta la vostra antologia, un prendere atto e andare avanti e migliorare e credere. Senti Rossella, quanti anni hai? Sei giovanissima. Sì, ne ho 32. Okay. Una bambina. Senti, va bene. Io direi, se sei d'accordo, ti lasciamo qua, così noi concludiamo la serata. Ti invitiamo a essere comunque presente durante tutto il mese di ottobre con la Carovana dei Poeti. Mandaci magari tue impressioni, anche l'esperienza così radiofonica, che cosa ti è sembrato, certo. Che cosa ti ha lasciato nel cuore. Se vuoi scrivere il nostro blog, comunque lo conosci, e sì. Ti invitiamo a restare partecipe per tutto il mese di ottobre. Certo. Un saluto. Certo. questa opportunità. Grazie per aver letto e detto le tue poesie, grazie per aver partecipato alla Carovana dei Poeti. Bene, buonanotte e buona serata e tanta serenità. Grazie. Ciao. Se mi è piaciuto quello che ha detto anche Tito, dice la serenità non significa non indignarsi. Mario, oggi noi ci siamo indignati, però col sorriso sulle labbra, perché da Schumann c'era molta ilarità, molte persone che ridevano, anche scambi di battute, commentini un po' sagaci, un po' maliziosi tra i vari partecipanti, perché Bruxelles, insomma, ne sono già successe, ne abbiamo viste parecchie. È stato un momento così anche per incontrare i vecchi amici, vedere anche i vari assistenti della pregressa così gettata parlamentare sono ancora presenti a Bruxelles e si sono dati ad altro, anziché alla politica fanno tutt'altro, però comunque tutti presenti, quindi anche questa diversità che accomuna un po' noi europei, perché ci sentiamo più europei ormai, ci sentiamo italiani ma anche tanto europei, questa diversità che è la nostra ricchezza, perché fa di Bruxelles veramente una città fuori dal comune. Che ne dici, sì, Mario? Sì, assolutamente, questa è una cosa che senz'altro si può capire pienamente vivendola, no? Venendo qui, anche a me capita. Io sono qui da 5 anni, uh-huh, e anch'io vedevo Bruxelles magari come una cosa mitica che è lì lontana, e poi niente, poi si arriva, si vede che anche qui giustamente ci sono persone in carne ed ossa, uh-huh, e come ben dicevi, ecco, occasioni come queste, come dicevo prima, anche non è solo una protesta ma è proprio anche un incontro per vedere, di stare insieme, di poter provare a fare delle cose, no? Si rivedono delle persone, qui spesso ci si vede anche in altre occasioni, ci si sente per email, però vedersi direttamente è molto bello, soprattutto perché si condividono delle idee e dei sentimenti, no? Bene, senti Mario, direi, se tu sei d'accordo, per respirare un attimino, diamo spazio alla musica, perché Paola ha scelto un brano che credo sia anche in linea con quanto da noi detto fino adesso, e poi salutiamo i nostri amici prima di chiusura serata. Sì, infatti ascoltiamo Dottor Wonce con Revolution. Perfetto, grazie. Dottor Wonce con Revolution. Benissimo, sulle parole di questa musica Revolution, sempre ringraziamo Note Volanti, che ormai è sponsor ufficiale della tela sonora Radio Alma. Un saluto brevissimo da questa regia che pulsa, perché la Paola sembra un grilletto, non la potete vedere, ha un sorriso bellissimo. Prima o poi, mentre lei intenta scegliere la musica, le faccio una foto qua dalla sala dove noi parliamo e poi la pubblico sul blog senza dirle niente. Troppo gentile, dice, al microfono che non funziona, talmente timida che è riuscita a far andare in tilt anche il microfono. Bene, Mario, dai un saluto telegrafico, deve essere qualcosa che incide, che scolpisce, che scava il cuore di questi italiani che sono a Bruxelles. Create italiani, il momento è magico e propizio. Ok, allora uso proprio una bellissima frase dei poeti di prima: reagire alla desertificazione. Noi oggi abbiamo contribuito nel nostro piccolo a seminare qualcosa e sicuramente continuerà a crescere, a germogliare tante cose importanti. E non individualmente, ma con una comunità di intenti che ha del magico. Bellissimo. E vi lasciamo, esatto, con questa magia di Luca Ariano e Luca Paci, di Alessandro Ramberti e di Fare Editore. Paola, quanti secondi abbiamo? Salutiamo allora, salutiamo tutte le persone che volevo salutare. Saluto il mio papà che è triste e ha bisogno di incoraggiamento. Saluto Shebnem e Brigitte che si trovano a Milano. Saluto Gabriel che è il figlio, la nostra mascotte di Mario Cappelli, che finalmente è venuto al mondo dopo tante difficoltà, che già dentro al ventre della mamma non si sapeva bene se ce l'avrebbe fatto oppure no. Ringrazio Luca Ariano, Tito Truglia, Dale Zaccaria, Rossella Renzi. Saluto ancora Roberta che compie 50 anni, tanti auguri Roberta, e un saluto particolare a Alice e Mario che sono qua con noi, e un grazie alla nostra cara Paola che esiste, perché senza di lei la tela sonora non avrebbe luogo. Si può dire? Sì. Sorride, timida ma sorride. Bene, cari amici, che dobbiamo fare? Vediamo cosa vediamo? Meglio chiudere? Ancora un minuto? Alicia, non ci può dire proprio niente, neanche buonasera in spagnolo. Buenas noches, muchas gracias a todos y nada, muchísimas gracias por habernos invitado y he vivido una noche fantástica. Muchas gracias a los poetas, todos muy, muy buenos y nada, prometo leerme todas las poesías de ellos. Besito, ciao. Oh, avete anche avuto un saluto in spagnolo, ma vi rendete conto di cosa è la tela? In tedesco, in francese, in inglese, in spagnolo, in calabrese, perché questa sera Tito ha letto in calabrese, ma lascio la sta, no? Le formiche, vi sorprenderemo perché ci saranno altre lingue presto anche il farsi, l'iraniano. Saluto, un arrivederci a venerdì prossimo, in qualche modo ci troveremo il sistema per andare in onda, la carovana continua, non verrà certo abbandonata e fermata da noi. Un bacio a tutti, ciao, a presto, grazie. Ciao. Ciao. Le menate, per carità, ma va bene, insomma, è anche giusto. Però mi sembra che debbano occuparsi più di stronzate, chiamate termine, piuttosto che poi del merito. Ed è questa una cosa, il colore è magico, the cold dark street tonight, dipende dai proprietari, la comunità montana, la donna dov'è. Girls with the curls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head goes towards the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head goes. 20:58, una buona serata da Luigi Ambrosio, il microfono aperto serale ritorna lunedì alle 20, buon ascolto. Interrompiamo la solita pubblicità per una notizia straordinaria. I Super Genialloid proteggono la tua auto 24 ore su 24 contro ogni imprevisto, dagli eventi naturali più catastrofici alla semplice rottura dei cristalli. Un super servizio con un risparmio fino al 50%, e in più le nuove polizze auto su internet hanno uno sconto extra di 20 euro. Fai un preventivo su genialloid.it. Genialloid, così semplice. Passaparola. Ripassiamo la linea alla solita pubblicità. L'amore è un valzer, gli amici sono punk, il lavoro è un liscio, la passione è tango, la famiglia è jazz, l'autunno è blues, il teatro è rock. Anzi no, è grock. Scuola di teatro, quelli di grock. Tutta un'altra musica. Sono aperte le iscrizioni, ti aspettiamo. www.quellidigrock.it. Lo sapevi che 5 cubani da oltre 11 anni sono in carcere negli Stati Uniti per aver combattuto il terrorismo? Lo sapevi che Posada Carriles, mandante degli attentati a Cuba in cui ha perso la vita, il cittadino italiano Fabio Di Celmo, è libero negli Stati Uniti? In solidarietà con i 5 cubani, e contro l'assordante silenzio dei mezzi di comunicazione, l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba organizza una manifestazione a Milano, sabato 10 ottobre. Concentramento e corteo da Piazza Cavour alle 15. Al termine, musica dal vivo e danzatori cubani. Per adesioni e informazioni